controllare, un lettore DVD, praticamente c'è un'imposta alla lingua italiana, non so, boh. È entrato Daniele, molto c'è fatto, ha detto, se non fa vuol dire che devi, non devi aumentare di watt, non devi portare 20 watt, e come ci fa? Doppio root, Daniele, il corso ha aperto l'anno. Dove abita? Ha fatto l'anno qui a casa tua. E le macchine che scaricano, dove stanno facendo passare quelle che scaricano lì alla sinistra? Daniele, ma dove abiti? Dove c'è la Sisa? Dove c'è? Ah, lì abiti. No, perché lì dove c'è la Sisa abitano un po' di colleghi miei. E come stavo dicendo, hai visto dove ci abbiamo l'impianto noi, il depuratore? Ci è venuto, no? La strada non ce n'è più, la stanno tutta rifacendo nuova. Però la stiamo facendo noi, capito? L'officina turistana la sta facendo. La barita ne farà da sopra. Beh, quella è espropriata, quindi fa parte è nostra quella strada, capito? Da dove c'è, da dove finisce la strada asfaltata, inizia quella bianca, lì non ce n'è più. Quindi stanno pulendo tutto, buttando piedi. Qualcuno si è accettato la portante facendo ascoltare la propagazione, quindi la stiamo facendo tutta nuova, capito? Stiamo entrando dall'altra parte dove c'è l'ingresso della marina, da lì, perché dall'altra parte non si può entrare. Questi eventi così sono da paura, speriamo che non succedano, perché insomma ho fatto un bel danno quest'anno l'acqua, comunque vediamo un po'. Ma lì dove c'è la fontana abita anche Falconero, non lo so se gli ha fatto danno. Ah, Falconero, lì in via Castelsardo. Ma cosa le sei male di quella situazione in giro? Che ne avete tutti i gatti in pari con miei per fare affogare i sussini? Ma io non ho visto più di tanto, quando sono venuto il giorno dopo che aveva fatto il casino, ho trovato qualche fioriera in giro attaccata alle macchine. Ho già aperto una voragine nella strada, 4 metri di strada, cioè 4 metri di strada bianca, ma sempre ben tenuta, ho aperto una voragine in mezzo allucinato. Capito, proprio una voragine, si è aperta la strada in due, vicino all'impianto. Adesso andiamo, Pippo. Grazie, il cane, devo portare il cane, sono già alle 11. Signori, un abbraccio a tutti, grazie alle due chiacchiere, ciao Luca, ciao Daniele, ciao Gianni, Massimiliano, se l'ascolto, Sandro, chiunque fosse su 10. Buonanotte a tutti, tanto non ci siete, dopo quando salgo, è una mezz'oretta, mi faccio un giretto col cane. A domani, statemi bene, vai già. Ciao, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, Cla, buonanotte. Sì, ci sono, mi sto leggendo un email un attimino di PayPal. Mi prendi già. E vabbè, come domani non ci sono dovuto scendere io, cioè ci sono una collega. Ma sorso, però sapevo manco dove andare. Venerdì, sì, venerdì. Ciao Daniele, buonanotte, buona giornata, per domani, alla prossima, ciao, avanti. Ciao Daniele, buonanotte, sogni d'oro, andate, speriamo che l'acqua, non so se si vada solo al mare, ciao, avanti, Lucrezia. Ah, tu sei in fede? No. Ah, hai ripreso? Sì, già due giri va. Vabbè, ma non è manco, non hai preso un paio di giornate per fatto dei denti, no? No, ero proprio in fede, c'erano due settimane di fede. No, il 24 sarei dovuto andare dal dentista, invece il chirurgo non c'era, quindi è rimandato. Adesso devo andare martedì, sicuramente mi fanno la tortura. No, ho capito. Che mi devono limare i denti. intenzione di incastonare gli altri con il pezzo. Sì, ho occupato un bel sibio. Ecco, ecco, per forma di messaggi. 880 messaggi. È bello. Poi mi è stato, me li voglio cavare tutti, non me li ha voluti togliere lui, perché se sono buoni è meglio che ce li abbia. Magari poi, vabbè. Quando uno vuole fare un lavoro lo fa e boh, così sei sicuro di quello che stai facendo, magari quel dente buono che hai, magari prende il gorra non ti regge, e vedi dove andare, quindi una garanzia ce l'hai almeno, sì. Certo che ce l'ho. Con la spesa che sto facendo se non avessi garanzia, lo aiuto. Quanto? Quanti anni? Cosa vuol dire? Non è che ti danno anni. Loro ti seguono sempre, capito? Ogni 6 mesi devi andare a pulire, devi togliere, pulire, rimpiazzare. A pagamento? Non penso che sia tutto compreso, si sono curati un bel dinamico, no? Non ci puoi dire. Mi manca poco, va a finire tutto, buonanotte, se mi dedocci. Vabbè, ti credo. Quello che mi dispiace è che un ferro non l'hanno potuto mettere perché avevo l'osso consumato e non si poteva mettere, se no si spaccava la mandibola. E allora? Allora invece che metterne 4 ne ho messo 3. E vabbè, adesso te ti regga, te ne frega. Sì, ma legge, legge, perché dove non c'è il ferro non lo applicano agli altri denti, capito? Ma vuol dire, ma avevo un'idea, un bel. Comunque io l'ho letto, praticamente sono in porcellana quelli che fanno, come si dice, come si chiama il paese, vaffanculo, sono in porcellana, no in corresi. In Croazia, perché io vedi dove sto mettendo, sto mettendo un porcellano. Tu mi hai detto che lo mettevo in Croazia? No. Io ti ho detto che sono andato da Vita al dente e ne volevo mettere in resina e non ho accettato. Ah, ecco. Perché me ne ho girato un po' prima. Vita al dente, me li volevo fare in resina, però dice che era una resina buona. Siccome ho un'amica che lavora da un dentista metà, non li mettere mai in resina perché si fanno già di colonna del tempo e in più si consumano un bel. Invece quelli in porcellana no. Io me lo posso immaginare. Quelli in porcellana durano una vita, muori prima tu che si consumi. L'unica cosa che si possono aspettare è se si aspettano con il porcellana ti tocca togliere tutto completamente l'impianto, mentre invece con il resina te li possono lasciare addosso e farti il lavoro addosso. Ma così? Io mi sono informato su tutto, io ho questa amica che lavora tantissimi anni, è proprio quella che gestisce tutto quanto, prende gli appuntamenti, tutte queste cose, aiuta il dentista nelle operazioni e cose, ma non li mettere mai in resina, quindi in resina sono denti provvisori. Sembra così, fa una grossa spesa. Ho messo il gioco per calare con la pedana, se fosse di qua o su cibo. È una grossa spesa, Ruba, non pensava quando uno è giovane, senza niente è brutto. Lo so. Poi questa bomba. Se paghi chiaro piano, non è che devi pagare tutto una volta. Ecco, una cosa che costa molto, costa poco. Poi ci fai pagare a chi ha, cioè a chi supera il reddito, no? Reddito tipo, gente che lavora, che prende un po' di soldi. Ci fanno pagare anche uno che prende 1000 euro al mese. Mica i partiti di sconto, i partiti di pagare, il cazzo di baghi tu. tutti li fanno pagare. Tu non mi hai detto che avete trovato un inghippo per farti? Sì, ma vabbè, non era così. Questa persona è stata fortunata perché conosce gente, se sta mettendo così gratis, ma così va a pazzire. Sì. E come fa? Se li mettono denti buoni c'è il costo, non sai che un impianto costa 800 euro. Già. No, avevo i denti fissi. Ho capito. Praticamente. Praticamente invece di mettergli la protesi mi stavano fissi perché amica non so mezzo parente non so mi trovo è gratis e gli stanno facendo così ma non a tutti sono buci o no ma si contano su un palmo di una mano a quelli che le stanno facendo ma tu di conto non mi puoi chiedere a fare cazzo no io ho deciso di farli, ci ho pensato un po', ho detto cazzo, tutti i soldi che ce l'ha fatte, cose, boh, in giro le scatole, ma piano piano gli ho dato un bel gruzzo, gli ho dato più di 5.000 euro e adesso glielo sto dando ogni volta che vado, gli do 200 euro, fino a finire di pagare. Vabbè, già può fare chi sta lavorando, tu già stai sta lavorando. Poi già ti rientra quei soldi a voglia, quando te andrai in pensione, con la liquidazione, poi a sempre, roba, noia, casino, un casino, piano piano mi zia Ghito, vabbè, piano piano, e così, se non riesco a cancellare, non riesco a scancellare, questi messaggi ti scancello sai come dici sono andato al dentista gli ha detto il dentista mi deve pagare il mese se lo prende se tu gli soldi paga il dentista si guarda e dice ma questi qui sono finti e lui fa e perché li denti veri me li hanno messi era un meccanico mi ha contato la macchina 500 euro, io li rubati, ma li ho rubati, a me non mi interessa come li ha presi, basta che tu paghi a me, e fa buttarsi la ghita. Che paga. Comunque quello è stato furbo a rispondere così, non si è lasciato fregare. Se cazzavamo sulla dentiera, tu vuoi già bene. Ma comunque, tu... Adesso per dire, non ti rimetteranno finti, però almeno la protesi la potresti mettere. Ah, non penso brutto. Ma non si muovami Luca, ce l'ho io adesso la protesi, non si muove, basta che tu metti quella colla pulita in cosa, non ti si muovi nulla. No. Piano piano, adesso vediamo un po', qualcosa ne usciranno, aspettiamo. Quella è la prima cosa che devi fare, anche per l'estetica, sei giovane. Ma sì, chi sta chiamando? Non ho capito cosa dici. Sono Massimo Claudio, e mi chiamo i denti, guardo, per tutta la radio. Per la radio faccio tutto l'impianto elettrico. Ma se non l'hai visto Di Max, quella tipa che è andata, dice, io... ho un dente d'oro, vorrei guadagnare qualcosa. Dice dove? Appigliate se ne aggavate la dentiera con il dente d'oro attaccato. E quello ha detto, ma noi non vendiamo dentiere, ci scusi ma vendiamo roba d'oro, bracciale, roba così, tanto cosa incazzata. No, ma non mi date niente. Non c'è più questo banco di pezzi. Non c'è più? Non c'è più cosa? Ciao. Il banco dei pegni, ho detto, non c'è più, cazzo al buio non vedo il tasto, e tocco sempre la pedale. Il banco dei pegni. Dove? Da Di Max, quello con i baffi anziano con i figli che prendevano e ritiravano roba. E dove? Dove rimane? Da Di Max, in America, a Detroit. Ah! stati, ma sono più visto, ora ho spesso quello, mannaggia. No, non c'è più uno. Questo ce n'è un altro simile, ma non sono gli stessi. Ma questo mi ha buttato fuori. Proprio, no, lo guardavo spesso. Facciamo vedere tutto come fanno le merendine, come le incartano, come le patatine, tutte queste cose. Ma è bello quel programma, perché c'è troppo. Sì, ma adesso tutti i programmi che davano lì si erano trasferiti sull'altro canale, che era su di Max. Come si chiama? Te lo ricordi più, no? Iris, no. No, non è Iris. E vabbè, comunque quello di Max stesso sono... Dice si hanno trasferito tutti i programmi migliori e quello degli acquari, che lo guardi, acquari di famiglia. No, non sono molto, no. C'è la televisione, non accendo poco e niente. Allora, questa qui è una famiglia composta da padre, figlio, nuora e poi ci sono due cugini e padre. E fanno gli acquari più, diciamo, più strani del mondo. Per dire, uno ci apre un bar e vuole l'acquario a forma di coso, di botte, di come si chiamano, quelle che fanno incantare la spina, ma non mi di barile. E praticamente loro li realizzano l'acquario a forma di barile, con i pesci grandi dentro, mettono quelli che vuoi, anche pesci spada, squali, di tutto. E che canale è? Sempre di Max, c'era oggi, e di solito andavano la domenica fanno un bel di acquario, per dire, una volta ne hanno fatto uno da una cabina telefonica di quelle vecchie inglesi, e questo qui voleva la bolla dentro la cabina telefonica, e gliel'hanno fatto dentro la cabina telefonica l'acquario. Cosa addirittura? E hanno lasciato anche il telefono dentro, quelli che ci girassero al telefono e cose. E fanno queste cose strane, da macchine vecchie, dentro le macchine vecchie. Ma il programma a me mi piace, la verità, perché ti impegna, no? Fanno vedere altre cose. Io guardavo le costruzioni, non costruivamo una macchina, per esempio una gomma, oppure come piazzano le moto. Cioè non la fabbrica devono fare due corsi scuole, le moto, le macchine, ho detto un bel. E poi vanno tante altre cose. Poi no, facevo vedere, lì mi sbaglio, se non sbaglio, lì, come corsi scuole un aereo, mi sa, una nave, boh, se non mi ricordo. Allora, io ne guardo uno di programma, dove più di uno, dove vanno a prendere le macchine vecchissime, tutte arrugginite, e le trasformano, tu ne sai che roba che fanno. Ci avevi visto tu la costruzione di una nave più grande del mondo, mi sa. No, quello non l'ho visto. E le grandi costruzioni già le ho viste, spostano le case con metodi barbari che allucinanti. Le case lì non sono fabbricate, capito? Mi prendi e la sposti, ci sono delle ruote che li infilano sotto, infatti c'è questo carrello grande, tu la vuoi un'altra campagna, prendi e te la sposti. Ma è allucinante però, è una cosa allucinante, riesci a vedere, per i miei scinocchi, fanno delle cose allucinanti. Le cosiddette americanate. Io due assi siamo a piedi con un culo un due, fuori di gabbo, che c'è così la posta che fa schifo. Che perché? Hai visto che il microfono l'ho regolato adesso? Sì. Adesso va bene, adesso ho giusto. Non questo qua, perché questo è il campo. Serve il campo. Beh, questa è Shemali. No, no, questa è bella. Tutti mi dicono che è meglio l'altra di questa, Diciamo, quel tipo di microfono. Questo che si è creato da usare quando si è seduto, non si è tagliato, perché se non lo metti in me, tu sei frontale, no? Non è troppo. Ti conosce bene. Allora lui è omnidirezionale questo qua, non è frontale. Se tu guardi le 2060 come ha fatto, ti accorgi che sia dai lati che da davanti esce la voce. È perfetta. Ma non lo so, non saprei. Non saprei, io so che funziona così poi. No, a me grazie di tutte le direzioni, no? Poi vabbè, dove è posizionata la cosa, dove è posizionata la capsula, è così. Non lo so, non saprei. Comunque già esce bene. Che la macchina, adesso facciamo girare col mani, un con l'altro, con quello, e adesso domani io lunedì mi arrivo col microfono, la riprovo quello, se va bene quello, lì mi lascio quello lì e me ne ordino un altro, se no lo metto in macchina e lo uso con l'altro baracchino della macchina, adesso vediamo, e questo lo lascio qua. Peccato quel 48. Ancora non l'ho visto io, non so nemmeno dove, sinceramente. Io lo voglio, perché a volte quello si riprendeva e partiva, e andava alla grande per giorni e giorni e poi lo rifaceva, capito? Vabbè, se te l'ho fatto, fa così, tienitelo. Infatti io l'ho aperto per vedere se era qualche filo staccato nell'attacco del microfono, gli ho cambiato il microfono per provare se era il microfono, e insomma, però ve ne ho fatto 1001 la Luca. Il problema è, vabbè, sono quelle istituite, prendi un po', mi sembra strano, siccome è un problema di relè, perché se ti funziona, finali non sono bruciati, riceve. Non è un problema di finali, è un problema di cosa, di aiutami, fanculo. Ma vedere. È il doppio modulatore che si è imballato, così mi ha detto Roberto. Il doppio modulatore è una bobina già, non è un coso, mica è quello che te lo fa agganciare. Cazzo, non c'entra niente quello. È RLE che conta, è RLE che fa agganciare tutto. Non so, non me ne intendo, non so cosa dire. Dire cazzate, perché non lo so. Comunque non esce di radio, punto. Cazzo, non esce di radio perché RLE lo aggancia. Cazzo. Capire e vedere un po'. Sempre che stai dicendo che tu non esci, tu non esci in radio, no? Praticamente potresti fare una cosa. Aspetta. C'è un pedale, lo apri, e schiacci il portante e vedi cosa succede. Vedi come lavora dentro. Se si sente tic tic quando attacchi. Vabbè, non li guardare bene, però usci. Scusa, non li guardare bene. Posso, già, vedi un po', fatelo dare. E poi vediamo. Sì, certo che ve lo faccio, costa 460 euro. Telefono, dopo l'ho comprato e glielo dico. Non me l'ha aggiustato. Anche così potresti fare. Non so se ne vedo di nuovo, magari se non da niente, poi io ce n'è poca di gente, non fingi. Ma dico, è meglio che, come si dice, è meglio che lo puoi dare, lo controlli bene, non vai a stare a cosa, va, lo portano, mi sembra. Va bulla, che me ne vado a letto, che già sono già stanco. Ciao! Chiudo tutto là, non me ne vo. Agrumi. Ciao ciao Luca, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, buonanotte, allora, ciao. Ciao ciao.